Qualunquisti. Qualunquisti. Qualunquisti. I-O. E-I-A-I-O. E-I-A-I-O. Vanno. Vengo. E-I-A-I-O. E-I-A-I-O. E-I-A-I-O. E-I-A-I-O. Qualunquisti non lo mangiano, lo fanno. Di notte mica dormono, pensano troppo. Di giorno il mondo è acceso, quindi se lo godono. Il fiato non gli manca e tagliano il respiro. Venuta l'alba, non sentono rumori con le scarpe sportive, cancellano le impronte. E un nuovo rock, suono sintomatico, vecchia esistenza a rischio limitato. Parlano in sardo per non dimenticarlo. Spesso purtroppo soffrono mal di vita. E nonostante non accenni a calare, cantano e non sanno suonare. Non c'è malizia in questo freddo che fa glaciare la tua bontà d'animo. Non si può essere martiri di felicità. Ta, ta. Cosa fanno gli animali per divertirsi? Si sentono liberi. Cosa fanno gli uomini per divertirsi? Si rendono schiavi. Cosa fanno gli animali per divertirsi? Si sentono liberi. Cosa fanno gli uomini per divertirsi? Si rendono schiavi. Li abbraccia tutto, hanno l'ego adesivo custodito con metodi lenti su sillabario. Staccano salti come corde di violino. Non ci fosse un'anteprima in vetrina da avvicendare. La quadreria è solo un presente per signore che fa parte della scuderia. Ma si sa, alcune mani sono più sensibili e vanno a riconoscere subito le fatiche. Sentono aromi che i cani non distinguono. E rigorosi appunto in queste occasioni si porgono ad indatti di tutto punto e carichi di buone intenzioni. Non c'è furbizia nella praticità, è un artificio d'ufficio che ti dà la stangata. Non si può essere martiri di felicità. Cosa fanno gli animali per divertirsi? Vaffanculo. Cosa fanno gli uomini per divertirsi? Cosa fanno gli animali per divertirsi? Si sentono liberi. Cosa fanno gli uomini per divertirsi? Si rendono schiavi. Siamo ogni giorno costretti a subire i loro rapporti imposti di supremazia, nel lavoro, nella scuola, per la strada, a subire quest'ordine sociale gestito da loro e proprio per questo nel loro solo interesse. Non dobbiamo rimanere strumento dall'applicazione sociale, dissenso nei loro confronti. La loro forza è nell'oscurantismo di Stato, infatti ogni processo di formazione di attività razionale si compone delle fasi in sequenza di conoscenza, critica e proposizione, e oggi ti impediscono di conoscerle. Chiediti il perché.